in primo piano. E allora, le riforme, la firma di Napolitano sul legittimo impedimento, questi titoli un po' di apertura. Riforme, ecco tutti i punti, questo è il Corriere della Sera. Legittimo impedimento, via libera da Napolitano per Repubblica. Riforme, il Premier apre al PD, questo è il titolo d'apertura della Stampa. Marameo ai giudici, così titola Libero. Marameo ai giudici perché la firma del legittimo impedimento ha dato lo scudo a Berlusconi per il momento. Riforme, la bozza al Quirinale, il Messaggero. Per il riformista è l'impedito, questo è il ovviamente è Silvio Berlusconi in foto. Napolitano ci mette la firma, questo invece è il titolo del Fatto. Per quel che riguarda l'apertura finanziaria economica, il Sole 24 Ore ancora punta sulla Grecia, fuga di capitali dalla Grecia, Geithner vola in Cina, vicina la rivalutazione dello yuan, quindi una situazione, diciamo, economica finanziaria a livello nazionale. Che dire, come ha detto, il legittimo impedimento, Napolitano ha promulgato la legge. Per Marzio Breda si fa sapere sostanzialmente che ha avuto una lunga meditazione riguardo prima di firmare questa legge, come anche scrive Dino Pesole a pagina 17 sul Sole 24 Ore, sia legittimo impedimento, Napolitano firma la legge, un esame approfondito del testo, dice e scrive Dino Pesole, condotto per circa un mese con esplicito e principale riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 2004 in materia di immunità delle alte cariche dello Stato. E dopodiché, con queste motivazioni, il Presidente della Repubblica Napolitano ha promulgato ieri pomeriggio la legge sul legittimo impedimento. Si prevede, si spiega anche che cosa voglia dire questa legge, sempre sul Sole 24 Ore. Bisogna dire che chi già si è adombrato molto è Travaglio, perché volevo leggere tre righe di Travaglio sul Fatto, è Di Pietro che fa sapere subito il referendum, sempre dal Corriere della Sera, dal PD frenano, è un'arma spuntata, insomma parte questo primo duello, diciamo, Italia dei Valori PD sul legittimo impedimento. Marco Travaglio è molto duro invece in prima pagina del Fatto. Ieri Giorgio Napolitano scrive: ha firmato l'11ª legge vergogna in 4 anni di presidenza della Repubblica. L'ha fatto così, con nonchalance, senza nemmeno un'obiezioncina, una puntina di malessere, 2 righe per dire che questa è l'ultima volta. Infatti è sempre la penultima. Ha impiegato quasi un mese a digerirla, ma alla fine è andato tutto bene. E poi dice: lo ha fatto prima di andare oggi al Vinitaly, niente meno, chissà se va a bere per festeggiare o per dimenticare. Insomma, Travaglio molto duro, il Fatto è molto duro, Napolitano ci mette la firma, legittimo impedimento, Berlusconi e tutti i ministri non processabili per legge. Questo è sicuramente un tema politico che trovate, vale a dire la firma, le polemiche anche che ne sono conseguite. L'altro grande tema è quello delle riforme. Ebbene sì, è il nostro tormentone, è il nostro di giornalisti che ne dobbiamo scrivere, ne dobbiamo parlare, è il vostro di ascoltatori. Le riforme, che è successo? La mossa sicuramente inaspettata da parte di molti, fatta ieri, è quella del ministro Calderoli. Calderoli è andato al Quirinale e ha consegnato la bozza delle riforme. Attenzione, perché ha suscitato talmente stupore anche nella stessa coalizione. Cioè, guardate Salvatore Dama su Libero che cosa dice della reazione di Berlusconi. Berlusconi sul blitz leghista, cioè di Calderoli che è nata al Quirinale. Ma sono impazziti, come gli è venuto in mente? Questo sarebbe il virgolettato di Berlusconi, che in maniera un po' più sfumata sul Corriere della Sera dice così: il Premier frena, vedrò prima fini. Cioè, ha suscitato stupore sicuramente il fatto che Calderoli sia andato dal Quirinale, sia andato da Napolitano al Quirinale. Neanche 12 ore dopo la cena ad Arcore tra Bossi e Berlusconi, Calderoli, a sorpresa, scrive il Corriere, fa il suo ingresso al Quirinale con in sottobraccio un dossier di 20 pagine. Ora, che cos'è che ha fatto Calderoli? La sua verità la consegna a La Padania. Fa un'intervista, Calderoli al Colle, ecco la bozza, ora si parte. In realtà Calderoli non la definisce proprio una bozza, non la chiamerei propriamente una bozza, intanto perché è andato da Napolitano. Il presidente mi ha chiamato in mattinata dicendomi che avrebbe avuto piacere di vedermi per avere un aggiornamento sul percorso che abbiamo intrapreso. Non chiamerei quello che gli ho consegnato proprio una bozza, dovendo partire da qualcosa su cui cominciare a lavorare, abbiamo realizzato un canovaccio privo di dogmi. Ecco, un canovaccio privo di dogmi, questo ha consegnato Calderoli a Napolitano. Qual è il modello di base? Il semipresidenzialismo alla francese. Dovrete fare anche conoscenza di questo modello. Secondo me nessuno poi sa che cosa voglia dire. Però il semipresidenzialismo alla francese. Che cosa ha detto il capo dello Stato? Chiede Alessandro Montanari, che lo intervista per La Padania. Non ha fatto osservazione, ha solo invitato alla massima prudenza, alla massima condivisione con l'opposizione. Sta di fatto che la mossa di Calderoli avrebbe un po' spiazzato anche gli alleati, un Fini molto irritato, e anche, fa sapere Francesco Verderami sul Corriere della Sera, non solo Fini come presidente della Camera, ma anche Schifani, stupito, come presidente del Senato, colpiti entrambi dalla irritualità del gesto, considerato per vari motivi un passo più lungo della gamba. Lo stesso Berlusconi ha dovuto un po' frenare. Un Berlusconi che tra l'altro scrive Repubblica, prepara la tregua, lavora la candidatura per il 2013. Ieri ha fatto un convegno, un summit, insomma, con i maggiori esponenti del PDL a Palazzo Grazioli, ha chiesto un applauso a Cota, a Zaia, una standing ovation per Mara Carfagna, la più votata d'Italia. A rovinargli il clima di Diglio ci ha pensato Renato Brunetta. Presidente, io veramente mi sarei aspettato una parola di solidarietà tua o di qualcun altro, visto che la Lega mi ha fatto perdere a Venezia. Questo sarebbe quello che ha detto Brunetta a Berlusconi. Che cosa sarebbe quello che avrebbe risposto Berlusconi a Brunetta? Chi c'era riferisce che la replica al ministro sia stata colorita, molto colorita. Questo per Repubblica. Intanto di riforme, di ripresa, parla Luca Cordero di Montezemolo in un'intervista al Messaggero, a pagina 9, un'intervista fatta da Luca Cifoni a Maranello, dunque nella sede della Ferrari, dal suo ufficio della Ferrari, nel cuore della fabbrica di Maranello, parla Montezemolo. Lavoro e fisco, le priorità, giovani decisivi, la Luis lo ha capito. Resto ottimista sul futuro del paese, dice Montezemolo. Abbiamo 3 anni di fronte a noi senza elezioni e dunque sarebbe delittuoso sprecare questa opportunità per fare le riforme, sempre le riforme. Quali sono, secondo Montezemolo, le 2 riforme chiave? Con tutto il rispetto per la riforma dello Stato, dunque semipresidenzialismo alla francese o chissà cosa, e quello della giustizia, pure fondamentali, le priorità immediate sono il lavoro e il fisco. Crescita vuol dire occupazione e tenuta dei conti pubblici. Occorre razionalizzare da un lato la spesa, come si fa in un'azienda: se non abbiamo soldi per gli investimenti o chiudiamo o li troviamo, ma occorre correggere anche quell'anomalia tutta italiana rappresentata dal livello dell'evasione fiscale. Trovo inaccettabile, dice Montezemolo, che ci sia solo l'1% degli italiani che dichiara più di 100.000 euro l'anno, è quello di cui avevamo parlato anche un paio di giorni fa. Poi parla del ruolo dei giovani, l'importanza dei giovani, di come la LUIS, vale a dire l'università LUIS, abbia puntato e punti molto sui giovani. Giovani che, dice Montezemolo, sembrano refrattari alla politica secondo le indagini, ma poi c'è un grande impegno, anche un grande impegno nella politica, nel volontariato, dunque puntare di più sui giovani per rilanciare il paese. Io voglio andare sul Giornale. Il Giornale oggi ha trovato il suo obiettivo, che non è una novità. Fini, c'è 5 righe scritte da Vittorio Feltri su Fini, molto graffianti. Caro presidente Fini, alcuni dei suoi colonnelli appuntati, i quali riconoscono in lei il loro punto di riferimento, cominciarono col dire che non volevano morire democristiani, poi di non voler morire berlusconiani, adesso di non voler morire leghisti. Quante storie, si accontentino di non essere ancora morti. Ma il vero bersaglio di oggi del Giornale è Beppe Grillo. c'è una foto di lui in costume, in una chiara tenuta da mare, le allegre vacanze del No Global Grillo, aragoste, champagne e hotel a 5 stelle. Il predicatore che razzola male. Che ha fatto Beppe Grillo? È andato, secondo questa notizia che viene riportata dal portale italiano in Kenya, a passare una vacanza al Luxury Resort Blue Cay di Malindi, in Kenya. Le 5 stelle di Grillo, come il movimento si chiama così, Movimento 5 Stelle. Ecco come titolo al giornale, le 5 stelle di Grillo, ferie extra lusso in Kenya. Che per carità non è ancora un reato in Italia andare in vacanza in Kenya. Però il giornale sottolinea, ecco, era colui che sbeffeggiava la politica che andava a Malindi, era colui che diciamo predicava bene e poi ha comprato un appartamento in Svizzera. C'è anche un Giancarlo Perna molto molto duro in prima pagina. Dunque Beppe Grillo è andato a rosolare le sue bianche e cospicue carni sulla spiaggia di Malindi accanto ai VIP che fustiga parole e imita nei fatti. È la stessa pasta degli altri predicatori che passa l'attuale convento italiano. Di Pietro della Mercedes, Travaglio in vacanza con l'amico dei mafiosi. Predicano bene, razzolano male e hanno un punto in comune, la faccia di bronzo. E poi si dice di Beppe Grillo, ha una mega villa a Sant'Ilario, Genova, una in Toscana, casa in Svizzera, in garage una Ferrari, un fuoristrada, un paio di utilitarie. Non so se è tutto vero, lo scrive il giornale. Secondo me dopo un articolo del genere qualche smentita, per essere eufemistici, arriverà. Poi, 7 anni fa si è avvalso del condono fiscale un minuto dopo aver criticato il cavaliere che lo aveva introdotto. Poi si parla anche della sua vicenda così anche drammatica del passato. Cioè ha detto non vogliamo dei condannati in via definitiva candidati, e lui ha una condanna a 1 anno e 3 mesi in passato per omicidio colposo perché guidando pericolosamente era uscito di strada uccidendo i passeggeri, madre, padre e figlioletto di 8 anni, unico sopravvissuto lui. Anziché essere addolorato, mortificato, ridotto un pizzico e accettare il verdetto del tribunale, l'attuale tribuno è andato in appello e prima di arrendersi in Cassazione. Questo già la dice lunga sull'arroganza. E poi scrive alla fine Giancarlo Perna, ritrovarcelo a Malindi è nel suo stile, quello di una ruffa popolo senza anima e col cervello in fumo. Insomma, durissimo il giornale, oggi l'obiettivo è Beppe Grillo per il giornale di Feltri. Troviamo moltissimo, ma io veramente sorvolerei sulla RU486, dove in questo paese, in queste cose francamente un po' bizzarro, che cosa ci dovevamo aspettare? Interviste su interviste, racconti delle sensazioni provate quando ha mandato giù la prima pillola, la prima delle tre pillole, RU486, pillola abortiva. Quella che è definita già la paziente zero a Bari, questa donna che insomma ha dovuto drammaticamente affrontare un aborto, è entrata nel policlinico di Bari, fuori c'erano i volontari di Don Benzi che pregavano coi rosari. Io cattolica ho fatto la mia scelta, chiesa e politica devono tacere, così parlò a Repubblica Sara, che in realtà non è il suo vero nome ma viene definita così, viene chiamata così. Sull'unità conquista il titolo d'apertura di prima pagina, sulla mia pelle, questo clamore fa solo del male, parla la donna che ieri ha dovuto interrompere la gravidanza per motivi di salute. È un tema molto serio, un tema drammatico, affrontato così dai giornali italiani, l'intervista alla prima donna che ha preso la RU486. Tra un paio di giorni ce ne saremo dimenticati tutti. Riprendo in mano il Sole 24 Ore perché, come detto, il Sole 24 Ore apre ancora sulla Grecia, la fuga di capitali della Grecia, la situazione delle banche elleniche, la situazione di Atene finanziaria non è una situazione sicuramente positiva. Anzi, a Iena ancora una giornata molto negativa per la Grecia sui mercati internazionali. L'ennesimo segnale di grave difficoltà è proprio dato dalle banche elleniche che hanno chiesto al governo aiuti per 15 miliardi di euro. Insomma, crisi globale. L'altro fronte è quello valutario, dove peraltro si preannuncia però una schiarita, fa sapere il Sole, perché il segretario al tesoro americano Geithner volerà a Pechino, mentre si moltiplicano da parte delle autorità cinesi i segnali di un imminente sganciamento del yuan dal legame con il dollaro e quindi di una rivalutazione della moneta nazionale. Questo, che è una cosa richiesta da tempo dagli americani peraltro, questo per quel che riguarda la crisi globale, la situazione globale. Ma per quel che riguarda, poi si parla tanto di riforme, di ripresa, eccetera. Guardate che cosa dice a pagina 2 Nicoletta Picchio, cosa scrive. L'Italia, questa è una valutazione di Centro Studi Confindustria, ultima in Europa per la libertà di attività economica. Allora, la classifica europea dell'indice della libertà di intrapresa nel vecchio continente, le libertà di impresa. Allora, se l'Italia non cresce, il motivo c'è ed è evidente. Siamo un paese bloccato, stretto da vincoli che tagliano le gambe alla libertà di impresa, ostacolano la produzione di ricchezza, l'innovazione. Colpa di che cosa? Della pubblica amministrazione ipertrofica, di un fisco che drena risorse eccessive. Infatti il titolo è Fisco prima zavorra per le imprese. Per voltare pagina sono urgenti appunto le riforme. Innanzitutto della pubblica amministrazione, il taglio alla spesa pubblica, il taglio del carico fiscale. Basta guardare appunto le classifiche sulla libertà di impresa nel vecchio continente. La media dell'Unione Europea è 57, viene dato un punteggio da 0 a 100, tenendo conto che 100 vuol dire massima libertà di impresa. La media dell'Unione Europea, come detto, è 57, l'Italia è a 35, una libertà pari a 35, ben sotto la media europea, a distanza siderale per esempio dall'Irlanda. L'Irlanda è prima come media 74, il paese più libero come libertà di impresa, poi la Danimarca, Gran Bretagna, Estonia, Slovacchia, Lettonia, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Lussemburgo, Finlandia, Repubblica Ceca, Austria, Svezia, Bulgaria, Germania, Polonia, Ungheria, Romania, Spagna, Slovenia, Francia, Portogallo, Grecia, Italia. 25esima, arriviamo alla fine anche noi, dopo tutti gli altri paesi, al 25esimo posto. Oh, di cosa parliamo ancora? Tante notizie di cronaca qua e là sono molto interessanti. Intanto trovate ancora una vicenda sulla mensa negata ai figli, mensa negata a chi non paga la retta. È su Repubblica, è sul Quotidiano Nazionale, avviene ad Adro, nel Bresciano, dove il sindaco, giunta della Lega, ha detto doveva partire da ieri, cioè niente pasto ai bambini i cui genitori sono morosi nel pagare le rette della mensa. Avviene in una elementare multietnica del Bresciano, protesta dei genitori, per il momento tutto congelato, nel senso che ieri è andato da mangiare, sebbene Repubblica dica di no, ma in realtà il Quotidiano Nazionale dice no, ieri alla fine si è deciso di dare da mangiare, ma da lunedì nulla. Vicenda incredibile invece sul Corriere della Sera, evasione beffa del re della droga, era detenuto in regime di carcere duro, era riuscito a ottenere gli arresti domiciliari per motivi di salute e da 3 settimane è fuggito. Si tratta di Roberto Pannunzi, 64 anni, definito re del narcotraffico per la sua capacità di gestire l'acquisto di eroina e cocaina per conto di 'Ndrangheta. È un uomo pericolosissimo, secondo gli inquirenti, ufficialmente irreperibile, aveva il 41 bis, il carcere durissimo. Poi è stato messo per arresti domiciliari in una clinica per cardiopatia ischemica post-infartuale, è scomparso. Si è tenuta la notizia segreta per 3 settimane per cercare di recuperarlo. Alla fine, dal 15 marzo, risulta scappato. Un uomo che è stato arrestato per la prima volta nel 94 a Medellin, in Colombia, e che da 30 anni, alleandosi con Gaetano Badalamenti, è in prima fila, insomma, nella criminalità. Roberto Pannunzi, ovviamente, si indaga ora per capire come mai sia stato possibile dargli gli arresti domiciliari e come mai, insomma, sia riuscito a fuggire. Calciopoli, c'è molto, moltissimo sui giornali, perché il Corriere lo mette anche in prima pagina. Ora la Juventus vuole riaprire il processo. È la vicenda di qualche anno fa, il sistema Moggi che fu scoperchiato. Ora però le migliaia di nuove intercettazioni che i legali di Moggi stanno facendo venire fuori, chiedendo perché queste intercettazioni in cui si sentiva che altri parlavano con i designatori arbitrali, anche per esempio il presidente attuale dell'Inter Moratti, l'allora presidente Facchetti, anche loro parlavano, perché queste telefonate non sono entrate nel processo, non sono state trascritte, non sono state valutate dagli inquirenti. La notizia è che parla alla Gazzetta dello Sport, beh, tutti mettono nello Sport è la notizia del giorno, oltre allo straordinario Messi, oltre all'Inter che sportivamente invece sta andando molto bene in Champions League. La Gazzetta dello Sport: errore morale lo scudetto del 2006 dato all'Inter. Parla l'ex segretario generale dell'UEFA, il tedesco Aigner, che all'epoca era uno dei saggi ai quali l'allora presidente della FIGC Rossi chiese un parere, cioè possiamo dare lo scudetto, assegnarlo all'Inter, cioè, o meglio alla, diciamo, dopo la Juve e il Milan era arrivato terzo all'Inter e Juve e Milan furono penalizzati. Aigner ora dice: noi abbiamo dato solo un parere giuridico, cioè era possibile assegnare lo scudetto, ma moralmente ritengo che quello scudetto non andasse assegnato all'Inter. In una stagione così irregolare, con la responsabilità di tutte, non era il caso. Ne parleremo alle 8.30. Che ne pensate? Insomma, va riaperta la vicenda Calciopoli. Sentiremo magari anche qualche intercettazione, qualche audio che vengono messi su internet, perché davvero è una vicenda che fa molto, molto discutere, appassionare. Tra l'altro Repubblica fa notare il 16 c'è Inter-Juventus, non si gioca per lo scudetto perché la Juventus è fuori dal giro, insomma, per quest'anno. L'Inter invece è prima in classifica, ma qualcuno fa notare, si gioca, come dire, si gioca per lo scudetto del 2006, non tanto per lo scudetto del 2010. Voglio andare tra le segnalazioni conclusive al giornale. Il giornale: Morgan drogato e pericoloso, toglietegli la patria potestà. Stefano Zurlo fa sapere che la ex compagna Asia Argento ha chiesto al Tribunale dei Minori di Roma di togliere la patria potestà a Morgan, colui che ha fatto la famosa intervista, la cocaina, eccetera. Tecnicamente si chiama decadenza della potestà genitoriale. È un atto d'accusa durissimo, depositato appunto da Asia Argento, che dice: Morgan non vede mai la figlia, non gli risponde mai. Insomma, una vicenda drammatica, personale. Morgan, drogato e pericoloso, toglietegli la patria potestà, lo chiede la sua ex compagna Asia Argento.